Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Berlino con Giuseppe Culicchia. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner. Per introdurre la nuova puntata di oggi e soprattutto la mia nuova destinazione in compagnia di uno scrittore, ho preso in prestito le parole di John Fitzgerald Kennedy per non lasciare dubbi né sulla meta né sullo spirito che ci accompagnerà. Perché da uomini liberi, come ha detto Kennedy, non possiamo non dirci anche noi, almeno una volta con orgoglio, berlinesi. Nome Berlino, Stato Germania, abitanti. Berlino è la città più popolosa del paese, con i suoi circa 4,2 milioni di abitanti dell'area metropolitana. Clima: l'inverno berlinese è freddo e ventoso, il sole si nasconde e la neve si presenta spesso, di giorno e di notte. Da maggio il tempo tende a migliorare, anche se si passa facilmente dal sole all'ombrello. Dopo l'estate, l'autunno berlinese è romantico e colorato, anche se di notte può fare freddo. Trasporto pubblico. Il sistema di trasporto pubblico è eccellente. La Berliner Verkehrsbetriebe e la Deutsche Bahn hanno il compito di gestire il più denso dei sistemi di trasporto pubblico, e cioè quello della metropolitana. La S-Bahn, metropolitana di superficie, con 15 linee e 166 stazioni per un totale di 331 km, e la U-Bahn, principalmente metropolitana sotterranea, in servizio con 173 stazioni e 9 linee per un totale di 147 km di tragitto. Completano i tram, i traghetti e i bus. Il servizio autobus di Berlino comprende 149 linee diurne e 63 notturne. Le vetture si distinguono per il colore giallo e sono spesso anche a due piani. I tram si raggruppano in un totale di 22 linee. Traghetti e circuito ciclistico sono ugualmente molto usati dalla popolazione berlinese. I primi sono parte di un circuito molto esteso e sono operativi lungo i fiumi Havel, Sprea e Dahme e canali secondari. Berlino è conosciuta in particolare anche per il suo sistema di piste ciclabili, altamente sviluppato. I ciclisti costituiscono infatti ben oltre il 15% del traffico totale della città, utilizzando un percorso di circa 620 km. Aeroporti. Berlino vanta due grandi aeroporti internazionali, aeroporto di Berlino-Tegel, a nord della capitale, e aeroporto di Schönefeld, a sud-est. Il mio accompagnatore è Giuseppe Culicchia, che introduce subito la sua motivazione per la scelta di volermi portare proprio a Berlino. Berlino perché era e tutto sommato rimane il cuore dell'Europa, perché senza Berlino non è possibile pensare all'Europa, perché Berlino è una città che ha fatto la storia dell'Europa e perché questa storia è ancora chiaramente visibile nelle sue forme, nelle sue carni, che sono ancora offese dalla storia. Die Stadt Berlin hat mancher schon besungen, der längst heut liegt tief unterm grünem Gras. Für uns sind das bloß noch Erinnerungen, als ob uns Mutter was aus Märchen las. Der eine liebt sie, andere wieder lästern. Manches verging, das einmal Staub gemacht, doch manches ist noch heute so wie gestern. Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht. Eccoci arrivati in Germania, a Berlino, grazie anche alla voce di Marlene Dietrich. Certamente non è la prima volta per nessuno di voi, almeno dal punto di vista musicale. Ma vediamo cosa mi racconta Culicchia della sua prima volta nella capitale tedesca. La prima volta che sono stato a Berlino, purtroppo dopo la caduta del muro e non prima, quindi non ho avuto la fortuna di vederla prima del novembre dell'89, era comunque una città dove si vedeva ancora molto la distinzione tra le due città, quella dell'ovest e quella dell'est. Era il 1995, se non ricordo male. E la cosa che mi impressionò tantissimo fu il fatto che Berlino era una città piena di vuoti, Erano le ferite della guerra che non erano ancora state rimarginate, erano isolati, spariti in seguito ai bombardamenti avvenuti tra il 1943 e il 1945. Erano interi quartieri che avevano che portavano ancora i segni della storia. Era normalissimo a Berlino aggirarsi per strade che sembravano uscite dalla guerra soltanto poco tempo prima, perché sembrava che tutto fosse rimasto così come era nell'aprile del 45, le facciate dove si vedevano ancora i colpi delle mitragliatrici, eccetera. Quindi aveva anche un effetto molto molto straniante quella Berlino lì. Era la città dove, al posto della Potsdamer Platz, oggi invasa dagli edifici progettati da Renzo Piano, Richard Rogers e altri architetti di chiara fama, c'era una enorme landa desolata che è ancora visibile in alcune sequenze del Cielo sopra Berlino di Wim Wenders, in particolare quelle in cui questo vecchio utente della biblioteca di Berlino si aggira per questo enorme campo, pare, tra che fa parte della terra di nessuno, tra l'ovest e l'est, e che cerca disperatamente di ricordare dov'era il caffè Giosti che lui frequentava da giovane negli anni 20, negli anni 30. Non riesco a trovare la Potsdamer Platz. No, credo sia qui. No, non può essere. Perché alla Potsdamer Platz c'era il caffè Giosti. Ci venivo il pomeriggio a chiacchierare e a bere un caffè. Guardavo la gente dopo aver fumato i miei sigari da Löse Wolf, una tabaccheria prestigiosa, proprio qui di fronte. Allora, non può essere qui la Potsdamer Platz. No, non si incontra nessuno cui poter chiedere. Oggi come oggi, prosegue Giuseppe, la Potsdamer Platz è stata riempita. Ha passato un lungo periodo in cui era piena di gru e di operai. Era il più grande cantiere d'Europa, forse del mondo, e attirava già solo per questo l'attenzione. Mi racconta che avevano addirittura costruito una sorta di torretta di osservazione del cantiere che si chiamava Infobox, un bizzarro cubo rosso da cui si potevano osservare da vicino i lavori. Ho avuto la fortuna di conoscere un paio di architetti che lavoravano a questi cantieri e di entrare dentro la Potsdamer Platz in essere, nel suo lento e allo stesso tempo veloce mutare pelle, e quindi ho avuto la fortuna di potermi arrampicare su impalcature e tetti di edifici che oggi sono lì belli finiti e con tutte i particolari del posto giusto, che all'epoca erano un sogno, perché i cantieri, come dice Marco Gé, sono dei sogni. Finché c'è un cantiere uno può immaginarsi quale sarà il prodotto finito, e poi una volta che il cantiere chiude invece bisogna fare i conti con la realtà, che non sempre è così bella come quello che si è sognato. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Berlino con Giuseppe Culicchia. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sono a Berlino con Giuseppe Culicchia, più precisamente in Potsdamer Platz, ora piena di edifici. Mentre a lui piace ricordarla in piena trasformazione, quando era ancora vuota, come nelle parole del bibliotecario del Cielo sopra Berlino, e poi piena di cantieri e di operai. Oggi gli sembra troppo piena. La sua eccezionalità, continua Giuseppe, era quella di ricordarci il Novecento, ricordarci un'epoca e le sue tragedie. E tutto questo, con il riempimento, è stato un po' rimosso. E le rimozioni sono tante oggi a Berlino, perché se ripenso alla Berlino, appunto, che ho visto per la prima volta, con questi vuoti che si aprivano improvvisamente svoltando un angolo di strada, oggi trovare i vuoti diventa quasi una caccia al tesoro. Ce ne sono ancora alcuni, soprattutto naturalmente all'est, un pochino ancora mitte, giusto sulla Linienstrasse o lungo la Oranienstrasse, e poi qualche cosa ancora a Friedrichshain, qualcos'altro forse a Prenzlauer Berg, ma gli anni passano e i vuoti vengono riempiti, le case diventano belle, diventano accettabili da un punto di vista estetico secondo il senso comune, perché vengono rifatte le facciate, ridipinte, gli infissi vengono cambiati e tornano ad avere l'aspetto che avevano, almeno quelle che sono rimaste in piedi appunto nel 45, tornano ad avere l'aspetto che avevano prima della tragedia. Non è la prima volta che, andando in un luogo pieno di storia, dove gli eventi hanno tracciato un prima e un dopo così netti, un mio accompagnatore fa il bilancio tra ciò che è stato, ricordandolo con piacere, e ciò che è diventato. Ma l'aspetto che a Giuseppe piace vedere ancora intatto nella Berlino di oggi non può non trovarmi d'accordo. E altre case invece sono state tirate su ex novo, lì dove c'erano i buchi, in genere con interventi architettonici molto visibili e talvolta devo dire anche un po' eccessivi, perché non sempre la mano dell'architetto è una mano felice, e diciamo che però ancora oggi, nonostante tutto, nonostante l'est si sia molto molto occidentalizzato, nonostante vie dove fino a pochi anni fa si trovavano appena un ristorante e un caffè, come per esempio la Neue Schönhauser Strasse, e che oggi invece sono una lunga teoria di locali, di negozi, di marche famosissime occidentali, malgrado questo l'est conserva una sua diversità, e oggi la diversità dell'est la si ritrova soprattutto, e questo fa molto piacere, nella vita quotidiana di chi vive in questi luoghi, perché sono rimasti per esempio i giardini, gli spazi verdi, le aree gioco per i bambini. Dann denk ich mal was anderes als immer nur an dich. Wenn das viele an dich denken, bekommt mir nicht. Am nächsten Tag bin ich so müde, ich pass gar nicht auf. Giardini, spazi verdi, aree gioco per i bambini. Questa è la città che tutti vorremmo abitare, senza il giogo della dittatura che queste cose le ha fortemente volute, come prosegue Culicchia. Berlino è la città che più in Europa credo sia veramente fatta a misura di famiglia, parlo sempre della Berlino Est, naturalmente, perché durante il periodo della DDR, come succede in tutte le dittature hanno un occhio di riguardo per i giovani, che poi dopo vengono mandati a morire al fronte, ma finché sono giovani vengono educati ad avere una vita sana, l'aria aperta, eccetera. Questo ha mantenuto la Berlino Est della sua storia. Berlino Est che si sta riavendo dal periodo delle occupazioni post 1989. All'indomani del crollo del muro, continua Giuseppe, moltissimi berlinesi dell'Est lasciarono nel giro di 24-48 ore la loro casa per raggiungere i parenti rimasti all'Ovest durante tutti gli anni in cui la Germania è stata divisa. E allo stesso tempo la gente dell'Ovest voleva trasferirsi a Berlino. E quindi c'è stato questo periodo pionieristico, direi, che è andato dall'89 fino appunto alla metà degli anni 90, in cui un sacco di ragazzi invece occidentali da Stoccarda, da Colonia, da Monaco si sono trasferiti a Berlino, e hanno occupato case abusivamente, case senza essere per questo degli occupanti politicizzati a volte, ma semplicemente per il fatto che erano lì, erano vuote, magari erano senza riscaldamento, erano senza acqua corrente perché intanto erano stati tagliati tutti gli allacciamenti eccetera, e però facendo grossi sacrifici, immagino, perché Berlino è una città molto dura, nei mesi invernali il vento che arriva direttamente dalla Russia arriva a temperature anche sotto i 20 gradi, e però c'è stato questo periodo in cui si poteva andare a Berlino e vivere con poco. Berlino sarà anche una città fredda, le mie orecchie si ricordano bene il vento che spira dalla Russia, ma non c'è niente che riscaldi più della qualità della vita, fatta di spazi verdi, di prezzi delle case accessibili e di rinnovamento sociale e culturale continuo. Ancora oggi si vive con poco a Berlino perché i prezzi delle abitazioni sono cresciuti negli ultimi anni, quindi comprare casa a Berlino non è più come era 10 anni fa, affittare anche, però c'è in genere un costo della vita inferiore rispetto a quello a cui siamo abituati noi in Italia e in generale in altre città tedesche all'ovest. Forse anche per questo Berlino è oggi, credo, la città più giovane d'Europa, quella che ha saputo rinnovare se stessa, non soltanto dal punto di vista architettonico, ma anche proprio dei suoi abitanti. E questo senza creare troppi scompensi, troppe frizioni. I problemi di integrazione che si sono registrati all'est hanno riguardato realtà più piccole, Magdeburgo, Dresda, Rostock. Berlino è stata da questo punto di vista più aperta, più disposta ad accogliere, forse perché appunto era una città vuota in gran parte. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Berlino con Giuseppe Culicchia. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Oggi sono berlinese. Giuseppe Culicchia mi sta conducendo per le strade della città che più di altre ha segnato la nostra recente storia. Tra la malinconia dei vuoti che non ci sono più della Berlino di una volta e i pieni di un rinnovamento continuo che la rendono così vitale, continuo la mia visita. La Berlino di oggi è una Berlino vitale, molto piena di novità che si succedono. Se uno manca da Berlino, non dico per un anno ma per un mese, ci ritorna e trova sempre comunque qualche cosa che non aveva visto prima. Questo naturalmente è l'indice migliore della vitalità di una città, che non rinuncia a interrogarsi sul suo passato e neanche sul suo futuro. Una cosa che ho scoperto di recente, perché sono appena tornato da Berlino in realtà, e me l'ha raccontata un insegnante di italiano in una scuola bilingue dove i bambini degli italiani studiano il tedesco come prima lingua e l'italiano come seconda lingua e viceversa, e mi raccontava che per la prima volta dal 95, da quando lei insegna a Berlino, nella sua classe non c'è nessun bambino che sia figlio di un pizzaiolo. L'emigrazione verso Berlino è cambiata, non c'è più chi va lì per aprire il ristorante, ci sono professionisti, designer, musicisti che evidentemente non trovano delle possibilità per la loro carriera in Italia e forse che cercano un futuro migliore per i loro figli e percepiscono la Germania e Berlino come un luogo dove cercare questo futuro. Berlino, così carica di passato, è oggi il luogo dove costruire un futuro. Questo viaggio mi sta emozionando. Forse non è solo spostamento fisico quello che stiamo facendo, ma anche e soprattutto emotivo. La Berlino di oggi è una città che funziona perfettamente dal punto di vista dei trasporti, cosa che per noi è un sogno, perché sappiamo bene come in Italia spostarsi all'interno dei territori urbani sia molte volte complicato e costoso da un punto di vista anche dei danni che si fanno all'ambiente. Berlino è una città in cui le linee della U-Bahn e della S-Bahn, dunque della sotterranea e della sopraelevata, coprono tutto il territorio urbano e suburbano in maniera eccellente, dove tram e autobus viaggiano a ritmi notevolissimi e dove spostarsi è molto molto facile, tant'è che per sentire il rumore del traffico anche lì bisogna andarlo a cercare. Uno deve proprio andare sulla Strasse des 17 Juni, che spacca a metà il Tiergarten, per sentire il rumore del traffico a cui noi siamo abituati a Torino, Milano, Roma, perché altrimenti non si sente, e a un certo punto ci si trova quasi anche lì un po' spiazzati. Uno dice: ma come, sono in una città con milioni e milioni di abitanti e dov'è il rumore? Una città senza l'inquinamento acustico cui ci hanno abituato le nostre città. Spiri pure il vento freddo che arriva dalla Russia sulle mie orecchie, ma niente rumore, bitte. Berlino è una città di milioni di abitanti, dove la sua storia si vive a ogni angolo di strada. Ed è anche una città che a questi milioni di abitanti che vengono ormai da ogni parte del mondo per respirare un po' di futuro, offre situazioni ambientali e culturali di grande sollievo. E poi Berlino è una città verdissima, piena di laghi, due fiumi, la Sprea e la Havel, e con il Wannsee e tanti altri laghi più piccoli. Quindi è una città che offre tantissime opportunità ai suoi abitanti per rigenerare il corpo e la mente dopo una giornata lavorativa magari passata in quartieri più cementificati. Allo stesso tempo è una città dove si trovano a convivere culture molto diverse, sia dal punto di vista etnico e sia dal punto di vista invece delle preferenze di ciascuno dal punto di vista musicale, dal punto di vista artistico, dal punto di vista anche letterario. Berlino, nelle parole di Giuseppe Culicchia, è anche la Berlino vista dalla parte dello scrittore. Per un italiano è una cosa strana, mi dice, scoprire che qui chi va in libreria ad ascoltare un autore che presenta il suo libro e ne legge alcune pagine paga un biglietto. Un biglietto dal prezzo assolutamente modico, che però viene corrisposto sia all'autore, che sta lavorando a tutti gli effetti, sia alla libreria come aiuto per sostenere le spese. Una forma di grande rispetto. C'è questo rispetto e c'è, questo ho potuto notarlo in quanto autore italiano, c'è un enorme, autentico, sincero, profondo amore per l'Italia da parte dei tedeschi in generale e dei berlinesi, che accorrono a sentire queste letture anche se magari non conoscono l'autore, non sanno bene di che cosa trattino i suoi libri, ma per il puro piacere di sentir leggere ad alta voce in italiano. Ed è purtroppo un amore non corrisposto quello dei tedeschi per l'Italia, perché noi non amiamo i tedeschi in generale ed è un peccato, perché in realtà la storia dei nostri due paesi ha lunghissimi tratti in comune. Noi ovviamente pensiamo sempre soltanto al Novecento, ma il rapporto che abbiamo con la Germania e anche con Berlino è di ben più lunga durata. Penso che un tedesco straordinario come Federico II di Svevia scelse di essere sepolto a Palermo e fece di Palermo la sua capitale. E fu in assoluto il monarca più illuminato del Medioevo. Qual è il vostro rapporto con la Germania e con i tedeschi in particolare? Il mio accompagnatore ha ragione. L'amore dei tedeschi per il nostro paese non è di certo corrisposto. E mi viene subito in mente un verso di Goethe nel suo viaggio in Italia. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Se noi siamo il paese dove fioriscono i limoni, Berlino forse si può dire la città dove da sempre fiorisce il domani. Berlino ha poco purtroppo di medievale, non è rimasto veramente più nulla. In compenso c'è un catalogo a cielo aperto dell'architettura del Novecento. A Berlino si trovano ancora le stradine raccontate da Alfred Döblin in Berlin Alexanderplatz, e quindi si ritrova in parte l'atmosfera del 1929, quando Berlino era la città più vivace d'Europa, ancora più di Parigi e forse addirittura più di New York. E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A Berlino con Giuseppe Culicchia. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Il grande amore per la Germania del mio accompagnatore di oggi, Giuseppe Culicchia, mi ha fatto vedere con nuovi occhi Berlino. La Berlino all'indomani della caduta del muro, con tutte le sue contraddizioni che ne fanno una città ancora e sempre più vivace. La Berlino a misura di famiglia. La Berlino senza il rumore del traffico. La Berlino dove si va in libreria ad ascoltare un autore che presenta un suo libro e si paga per rispetto dell'autore stesso. La Berlino e la Germania in genere così legate al nostro paese in un amore spesso non corrisposto. Allo stesso tempo, se penso a Berlino, penso anche al fatto che Berlino è una città dove banalmente si può ancora mangiare berlinese. Tante volte nelle nostre città si fa fatica a mangiare la cucina locale. A Berlino no, si trova ancora qualche piccolo posto, ad esempio il Gambrinus, che è un locale, un ristorantino all'angolo con la Oranienstrasse e la Linienstrasse, frequentato per lo più da gente del quartiere, operai, eccetera, dove si mangiano piatti della tradizione, un po' anche così ibridati da piatti della tradizione russa, perché ovviamente l'occupazione è stata lunga e si è fatta sentire anche dal punto di vista culinario. E poi naturalmente ci sono tutte le cucine del mondo, perché Berlino ospita un'infinità di locali aperti da tutti quelli che hanno deciso per un motivo o per l'altro di fare di Berlino la loro casa. Dopo aver fatto anche una sosta al Gambrinus e aver assaggiato le Königsberger Klopse e una Bismarckerin, sta per arrivare anche la versione by night di Berlino. C'è una Berlino che vive di notte, che è la Berlino che ha visto l'epoca d'oro della techno, quindi quella degli anni 90, quando a Berlino il dottor Motte organizzava la Love Parade, che attirava letteralmente milioni di ragazzi da tutto il mondo. Mi è capitato di esserci e di provare un grande senso di claustrofobia, perché stare in mezzo a un milione o due di persone effettivamente provoca queste sensazioni. E però anche appunto questa città per 48 ore cambiava faccia, anche con alcuni risvolti naturalmente così politicamente scorretti, non soltanto dal punto di vista delle sostanze che usava gran parte del pubblico, ma perché il rumore della musica techno faceva scappare i numerosissimi volatili e animali che abitano il Tiergarten, visto che la parata dei carri si svolgeva lungo la Strasse des 17 Juni. E quindi a un certo punto credo che la Love Parade a Berlino abbia concluso la sua storia anche per non disturbare gli scoiattoli e gli usignoli del Tiergarten, cosa che trovo oggi come oggi legittima, forse perché ho 46 anni e non ne ho più 30. Beh, Giuseppe ne fa anche una questione di età, è giusto. Gli scoiattoli e gli usignoli comunque ringraziano. Ho visto quasi tutto ormai, grazie alla pazienza di Giuseppe Culicchia nel raccontarmi la sua Berlino. Ma prima di tornare a casa, faccio con lui un piccolo inventario dei posti dove siamo stati. Non vorrei che ci fossimo persi qualcosa. Qualche cosa di imperdibile a Berlino finché c'è sono appunto le residue ferite della guerra, perché fanno parte della sua storia, della nostra storia, e quindi uno deve avventurarsi fino alla stazione della S-Bahn di Friedrichstrasse e percorrere la via che va verso la Museuminsel, lì dove ci sono il Bode Museum e il museo di pittura moderna e antica, e trova lungo le arcate della S-Bahn alcune ancora finestre sbrecciate da colpi di mitragliatrice, di Panzerfaust o quello che era, insomma, e sono veramente ancora pochissime queste tracce. Di nuovo la storia di questa città che esige la sua porzione di eternità anche attraverso gli occhi dei turisti. Una cosa da non perdere probabilmente è una banale il noleggio di una barca all'interno del Tiergarten. Ci sono delle birrerie con annesso pontile dove si può noleggiare per pochi euro una piccola barca remi, e ci si può avventurare nei canali che attraversano questo enorme polmone verde al centro della città. Ci si può quasi perdere in questi canali e così ci si può immaginare di essere in un'altra epoca, anche se perché anche lì appunto il rumore delle auto è molto lontano. E un'altra cosa che non mi perderei mai a Berlino, anche se è una cosa che in realtà temo facciano tutti, ma è veramente un peccato perdersela, è salire sul ristorante in cima alla torre della TV, che ogni ora e mezza mi pare ruoti e quindi offra una panoramica completa della città. E questo è un suggerimento più scontato, ma se non l'avete mai fatto, se avete paura della claustrofobia che inevitabilmente si prova all'interno dell'ascensore che percorre peraltro in maniera piuttosto veloce tutta l'altezza di questa torre della TV, vale la pena salirci. Ci stavamo perdendo delle cose molto interessanti. E a proposito di perdersi, Giuseppe dà la sua ultima indicazione. E poi vale la pena perdersi a Berlino. Ecco, la cosa fondamentale da fare a Berlino è perdersi, cosa abbastanza facile per un torinese che è abituato a una città con le strade diritte, perpendicolari, perché soltanto perdendosi si ha la possibilità di imbattersi nelle innumerevoli meraviglie che offre una città come Berlino. La poesia di questa città e dello spirito che permea a chi la visita, anche perdendosi, la voglio affidare ai versi di un grande poeta tedesco, Rainer Maria Rilke. Nessun vento è favorevole per chi non sa dove andare, ma per noi che sappiamo, anche la brezza sarà preziosa. Ora Giuseppe Culicchia è in libreria con A me ne inganni, edito da Mondadori.